26 anni e 3 mesi per l'ex questore di Brindisi Francesco Forleo. Dopo 3 giorni di camera di consiglio, la Corte d'Assise di Brindisi ha accolto sostanzialmente la ricostruzione del PM inquirente Leone De Castris, condannando Forleo per l'omicidio colposo aggravato, ma anche per depistaggio, falsi e minacce. I fatti risalgono alla notte tra il 13 e il 14 giugno del 1995, quando, durante un'operazione anticontrabbando al largo della costa brindisina, rimase ucciso il contrabbandiere Luigi Ferrarese. L'uomo venne colpito al capo da un proiettile sparato dall'elicottero della polizia. I giudici hanno accertato che fu proprio l'ex questore ad ordinare di sparare e che, si legge nella requisitoria del PM, si distinse per la spericolatezza dell'operazione, per la cattiveria ed il disprezzo della vita umana. Forleo, a bordo dell'elicottero, ordinò ai suoi uomini di scendere di quota fino a 15 metri di distanza dallo scafo e di volare ad una velocità limite di 60 nodi, ed è lo stesso ex questore ad aprire il portellone del velivolo e a sparare il primo colpo di pistola, ordinando successivamente agli altri poliziotti di passargli le bombe a mano. Ed è sempre Forleo ad ordinare al vicequestore Antonacci di aprire il fuoco su Ferrarese, che era disarmato, con la mitraglietta M12 in dotazione. Tecnicamente è stato un colpo partito dalla mitraglietta ad uccidere il contrabbandiere, ed è per questo che Antonacci, per lui 4 anni e 6 mesi, è a giudizio per omicidio volontario in un processo stralciato. Dopo la missione di guerra, Forleo guidò le azioni di depistaggio realizzate materialmente da alcuni poliziotti oggi condannati. Fu fatta ritrovare una mitraglietta a bordo dello scafo di Ferrarese, furono falsificati atti e fu minacciato il dirigente della mobile, Giorgio Oliva, 3 anni e 6 mesi per lui, per costringerlo al silenzio. Dopo quasi 10 anni si conclude così il processo a carico dello sceriffo Forleo, che anche ieri in aula di tribunale non ha abbandonato il fare sprezzante che ha contraddistinto le sue uscite pubbliche. Ci ha sfidati, raccontano i familiari della vittima. Si è fermato in mezzo a noi, ha acceso una sigaretta, ci ha guardato con aria di sfida. Per Amisnet, Ilario Galati.